faccia, ma dove vuoi? Semineremo il campo e avrai raccolto tutto per te da spendere. Sii disinvolto, segui il tuo cuore nelle scelte. Guaiaioi, guaiaioi, e di radici profonde che resistono.